queste 8 ore erano state conquistate a Vercelli nel 1906 fino a diventare legge nel 23. Il problema delle 12 ore, anche di più, perché alcune erano anche 15 ore dalle ricerche che avevamo fatto, quindi c'è veramente una roba allucinante. E in mezzo chiaramente alle lordure del fango, sanguisughe, mia nonna aveva il terrore di queste bestie che se le staccava, mi diceva, con violenza, e anche se le, alcune di loro le raccoglievano per portarle nelle farmacie, perché si raccoglie per le operazioni di falassi, quindi cioè, ogni cosa veniva veramente presa per portare a casa due soldi proprio. Ecco, nonna Oriela è morta a 102 anni nel 2013, quindi ha fatto in tempo a raccontarle bene quei 40 giorni. Guarda, è stata una nonna meravigliosa, una donna molto mite, quieta, infatti c'è tutta questa diciamo così rivalsa che a un certo punto le muove dentro. Lo muove per l'amore e dell'amicizia nei confronti veramente di qualche cosa che è ingiusto, essendo lei molto religiosa, a differenza di tutta l'altra parte della mia famiglia, perché combattenti, partigiani, eccetera. Lei proprio non aveva nessuna così preferenza politica, lei voleva stare in pace, fare le cose giuste, la natura era la sua protagonista assoluta in tutte le fiabe che mi raccontava, e le fiabe popolari ovviamente, però lei proprio aveva questo carattere mite, quindi quando mi racconta, mi racconta per me è come se fosse ancora qua, mi raccontava queste cose proprio come delle, non so, dice, mi è venuta la rabbia, dice, no? Cioè che sentire che non diceva una brutta parola mia nonna. La rabbia era già la brutta parola, capisci? Quindi, è la rabbia di quelle condizioni. Sì. E che manifestazioni sono state quindi quelle nelle campagne della primavera del 44, mosse da tutta quella rabbia? Il canto, perché non potevano parlare. Non potevano parlare, quindi il canto diventava veramente un comunicare qualcosa, una compagna che stava male, uno sciopero, perché le lasciavano cantare, perché il canto disturbava poco. L'importante era non parlare, perché altrimenti il caporale, quelli che il fatto che erano, insomma, usavano il bastone. Mica tante storie, quindi chinate giù e di andare, e poi non c'era tempo neanche per piangere in quei momenti lì. Una delle cose che mi ricordo, mia nonna si ricorda veramente degli aerei che arrivavano, e ci aveva paura, ma ragazzi, 20 anni è già una vita addosso, no? Sì. Una vita, tanta vita addosso. E quindi sì, però me lo raccontava sempre come era orgogliosa di questa cosa, era molto orgogliosa. Poi con Mercedes aveva un'amicizia straordinaria, quando se n'è andata prima Mercedes, a 90 e passa anni, non ricordo adesso, e lei mi disse, ecco, adesso sono veramente da sola. Quindi sì, e c'era i legami delle amicizie sono cose straordinarie quando accadono, quelle vere, diciamo. Quello che mi preme dire, una delle cose, è stato proprio il fatto che Mercedes è stata rispedita a casa, chiaramente, senza soldi e senza riso, c'è stata una grande solidarietà. Tutte quante hanno messo un pugno di riso perché potesse andare, perché potesse avere anche lei da mangiare. Quindi questa solidarietà in realtà poi c'era a un certo momento, perché nonostante fossero forestiere o meno, in quel momento c'era una condizione tale all'interno di tutta la guerra che stavano attraversando, che le portava anche ad avere una grande solidarietà, cosa che ci vorrebbe credo oggi. Devo chiedere, cosa direbbero queste donne se fossero ancora vive, di tutto quello che sta succedendo rispetto alla perdita di diritti che pensavamo ormai assodati? Esatto. Ma guarda, purtroppo non glielo possiamo chiedere. Quello che mi sento di dire è che forse sono una persona, e come me ce ne sono tante, che sono la vocazione di qualcosa che non c'è più, ma che comunque ancora